testa bolle, ribolle le jolle, la vista che morde, semini vizi, sì con il roller, odori le colle, collega strutture incastrata la fronte, inumidisci le fronte, apri il cervello, cazzo se molle, molle già, che già sorseggiato il suo cocktail, vuole le cocche, bravo allora è meglio se molli il poker, nelle pod, gioco poker, tu con le botte, vuoi trovarti famoso, girando qui poker, e sei forte, zitto e bomba scope, so che molli te che ne vai pro, soccer, la mattina apri gli occhi, sembastisci due moche, dici son poker, ti ritrovi ste rocker in mano che folle, ti corri da romanzo di Bram Stoker, Zaro, si vede, bevi whisky col popper, apprendi cultura dai mini poker, su, gli occhi disegnati con Corel, tu sembri Mulder ma qui sono scemo, e la tua tipa sei lì forte.